solo in radio, mi sono piastre, scaldabagno e perché ballacche fu, capite? Farlo a tiro, per che cosa? Ma ci eliminiamo lo scaldabagno che è la cosa più che consuma più di tutti. E poi vediamo. Adesso quest'estate lo faccio. Adesso non conviene più. Adesso l'anno è già iniziato, capite? Siamo già ancora d'inverno, quindi quest'estate non lo fanno l'impianto. È solo che l'estate poi non lo possono provare, non possono accenderlo. Ti vecchi per provare. No, io non pago tanto, di luce pago sulle 70, 78. Di cosa di qui? Le bombole ogni due mesi la metto nuova, quella di dentro, quella di fuori ce la mi dura un po' perché la uso solo in casi che devo friggere oppure devo fare roba arrosto, il forno ce l'ho fuori, capito? Ho mi sposto un attimo dalla radio, arrivo su. Ehi, allora. Non ricordo cosa che stavo dicendo. No, già non si può attaccare l'estate, sei indipendente, io me l'attacco quando mi pare, mi piace, cosa? Sono indipendente, io non ce n'è problema. Ognuno è indipendente qua. Capite? Non ce n'è problema. Per la rete del gas si è dipendente. Come si può provare? Certo si può provare. Per il riscaldamento no, il riscaldamento quello è un'altra cosa, quella caldaia è condominiale. Quella si accende a quell'ora lì e boom. Io devo provare la mia caldaia per il gas diretto, quello è un lavoro a parte, quello comanda la Medea, no? Apri giù la saracinesca che c'è nella colonnina mia praticamente, capite? C'è una colonnina, no? Apre, manda gas, accende la caldaia, prova, fa, non ce n'è problema. No, ma io dicevo, non perché non sia dipendente, perché per caso d'estate, per provare l'impianto lo devo accendere, capito? Ma tu stai parlando di impianto di riscaldamento, non c'entra niente l'impianto di riscaldamento con la mia caldaia che io devo fare a casa mia per eliminare la parte elettrica. Non c'entra nulla, quella è un'altra cosa. Ma ecco, non è tutto un impianto. No. La caldaia è alimentata con un impianto a parte dal gas della Medea. Il mio impianto è alimentato dalla Medea con un'altra linea a parte. Non hai mai visto quei tubi che ci sono nella strada chiusi con le saracinesche? Quelle sono le linee del gas dei condomini. Capito? Noi abbiamo già il tubo che entra all'interno del nostro condominio, dove c'è una rastrelliera giù. Capito? Ci sono tutti i numeri di ogni appartamento, chi si vuole collegare li aprono, intercettano, ti mandano la linea e tu c'hai il gas a casa. Ehi, ehi, vabbè, io so che ancora l'antica. Già, io so che l'antica non è che cosa c'entra. Io ho proposto addirittura i pannelli solari, di fare impianto a pannelli solari sul tetto, almeno dalla nostra parte, nel tetto della mansarda dove siamo noi qua della torre della scala F, capite? Non è che non si può fare. Non si può fare, è troppo alto. È un casino, vabbè, non avremo allora. Se no avremmo avuto anche energia elettrica gratis. Allora non c'è bisogno di metterti il scaldabagno a gas. Però perché tanta gente che lo fa, quello di Gigi l'ha già fatto il tempo, ma lui ha fatto l'impianto a gas, ci ha messo una bombola pure e c'ha l'impianto a gas per lo scaldabagno. Ma che quello si può fare a bombola, ma non conviene. Non conviene, sempre il solito coso della cucina. Ogni due mesi mi gioco la bombola. Capito? Invece qua la tariffa è molto molto bassa. Bassa, non so a quanti centesimi è il gas, capito? Quindi conviene fare così. Allora, quello di fronte a me mi ha detto l'altro giorno che ha pagato 35,70 euro ogni due mesi. Ma già vuol dire 35,70 euro. Ah. E io lo stesso faccio della macchina, quando metto in viaggio a volte mi manda un video, 15 euro, 22 al massimo, sempre spendo un bel po'. Pure io, 85 euro ma c'ho altro giorno. L'altra volta non fa pieno. Un guidone che c'è macchina, minchia quanto lo giuro che ci stacca. Già dura, eh. Dura un bel, faccio più di... L'altra volta col pieno mi ha fatto 1300-1400 km. Sono ritornato, 50 km prima di Sassari, praticamente ha avanzato una tacchetta fino a Sassari. Io vado a Cagliari, ma camminando, vado e torno, 50 euro me ne avanzo, me ne manca parecchio punto. Una volta in città la mia perché è alta di cavalli, capito? È di un 2016 vado, invece fuori no, una volta metti la sesta, lei vola tranquilla, non consuma, ma in città a marce basse consuma un bel, e purtroppo è così. E vabbè, Lugarie, Torre Magna si è andato. Quanto stava di ciacco allora? 150. E la mia 120. Ma sono 30 cavalli in più, sono belli. Vabbè. Dipende sempre dalla carrozza che c'hai. Vabbè. Un bel ne ha di carrozza quella. Un bel. 25 quintali pesa quella macchina. Ma già vola ancora, già vola. Nonostante abbia 300.000 km. Il genere ha detto che c'è un motore con la macchina che viene in buccia e un 16 valvole multijet, capito? Un turbo dice multijet 16 valvole, non è 8 valvole, la tua è 8 valvole mi sembra. No, è 16. 16 valvole. Appa. E turbo 16 valvole, 120 cavalli. Ma quella guinta bongo. Cosa? Ma quella guinta bongo, che c'ho qui tra la cappotta. No, io mi andando a Olbia un po' l'ho tirata, in quel rettilineo lungo lungo che c'è quella discesa lunga, e poi ho visto la macchinetta e ho rallentato, ma ho tirato sino a 190, poi ho mollato. Sì, stavo arrivato in quinta la mia, 220, 225 anche una tirata, quel delinquente, la mazza te ne vai, come fai cazzo? Così dice mio genio, capito? Dice lui, quando parliamo di macchine, siccome lui c'ha un 3000 BMW, capito? Allora fate un dolo, quando c'aveva 2000 ha pigliato due giusci, ha pigliato andando al ghiera nella strada a schermetto veloce, ma Giuscia che pigliava, adesso perché capito, c'ha 3000, 6 cilindri, no, 4 cilindri, lui c'ha 6 cilindri, 3000, adesso fate un dolo. Allora dice sempre così, manco la quinta bongo che sono già sopra la cappotta, vai caga vai. Sì, vabbè, questo non ne vale la pena mai ricorrere, perché io quando la tiro un po' più per portare su tutta la gomma, su tutto il resto della traccia, vale cago sotto, non la tiro di più. Ah, l'ho fatto, sto dicendo... Quando prende la mia, la gente si diverte, no? Perché la sua è uno station wagon, un barragione, mia macchinone, cazzo, vari gomme che ante l'ugamio. Quando prende la mia lui si diverte, capito? Perché è più leggera, più maneggevole. A trovare con, per dire, con metà salvatoio, non è torre che ha secco. Giulio, vai con la Giulio. No, non l'hai tirata, no. Cattucci, si è consumato la giura, la Giulio. Che un giorno è andata a Olbia, che ha preso quella, ho detto mi mi faccio la chiave, se devi uscire, vedi, te li racconto, io ci motto, io ci messo qua la zona, il cazzo di parcheggio a Sassari, cazzo si mette di macchina, ha preso la mia, è andato, è tornato, non c'era più, manco Guccio e Gasioli, è andato a telefonato, l'ha fatto il pieno, qua e girami le balle. Io la tengo sempre col pieno la macchina, metto sempre metà serbatoio, oltre metà di serbatoio per la benzina e sempre il pieno di gas. No, no, no, io gasolio sempre alto, mai deserto, mai, perché prende i residui, mi ha detto, capito, proprio il pompista, se vuoi che la pompa doni, devi tenere sempre il gasolio, mai far arrivare a riserva. Come sta per arrivare a riserva, devi subito riempire. Così faccio io, poi l'aria, insomma. Edo è un po' cubratito, Edo consuma ma non mette, capite? Infatti, quando la biglia poi 2 chilometri, poi la controllo, non è te di 20 kg di gasolio ti hai mangiato. Io, e allora che io, tu l'hai pigliato la macchina, vai, vai a guetta e poni brodo. No, beh, adesso già consuma poco. Non mi posso spaventare, allora una settimana ancora mi dura tranquillamente. Ho voglia. Io di solito ne metto 50 euro, non faccio mai pieno. Però sempre oltre la metà, capito? Ci mancavano i 2 tacchi al pieno. Poi ci l'aria l'altra volta, ho fatto il pieno. Ho detto, papà, 85 euro ne ho messo nell'alfa. Non gli avevo vicino, ma me lo fumo. Sono così, costa la benzina, costa quanto la benzina quasi adesso, invece il gas costa molto meno. Il gas costa una cazzata. Io l'unica macchina che ho avuto a gas è l'Audi 80, Station Wagon, non l'ho conosciuta. C'avevo benzina, era 1000 benzina, 110 cavalli. Rientra già ci sentiamo domani, ok? Sì, ciao, buonanotte, dai. No, stavo via anche io, dai, Luca non entra più sicuramente, c'è dormito. Buonanotte a tutti, adesso mi entra io, dopo c'è dormito due. No, è perché l'aria c'è coricata, se non c'è rimasta ancora, se non disturbo, capito? Dai, a domani, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte, Lucrezia, se ci sei.